La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30 primi e 42 secondi in questo martedì 2 febbraio, qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda, oltre all'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, anche il numero di telefono per intervenire oggi alla puntata. Vi dico subito di che si tratta: il numero di telefono è 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Allora, lo spunto è l'elaborazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, capita sempre a un anno di distanza, dei conti pubblici, quindi per il 2014, riaggregati regionalmente e localmente. È una cosa che trovate sul portale del MEF, se volete approfondire, Ragioneria Generale dello Stato, uscita due giorni fa, sono 232 paginette di dati e soprattutto molte molte tabelle. Qui ci occupiamo in particolare di una cosa e vi faccio una domanda. Adesso sentirete dei dati che riguardano la spesa pubblica riaggregata regione per regione e vedrete che dopo tanti anni trascorsi a parlare di federalismo fiscale, riequilibrio delle capacità di spesa rispetto a una maggiore autonomia del prelievo di comuni e regioni, le province lasciamole perdere, sappiamo che c'è la famosa sono diventati enti di secondo grado, ma malgrado tutto questo sentirete che divario resta nel nostro paese di spesa e faremo qualche considerazione su questi numeri prima di presentarvi i due ospiti. La domanda che vi faccio fin da adesso è: ma secondo voi è giusto e fisiologico continuare su questa strada o in realtà abbiamo perso molti anni, ci siamo raccontati molte cose, ma nella realtà abbiamo perso una straordinaria occasione e forse, se dipendesse da voi, bisognerebbe riequilibrarla questa spesa? Perché, tanto per farvi un esempio, ecco questo per consentirvi di telefonare, se guardiamo nel 2014 alla spesa finale pubblica per abitanti, ecco, per abitanti, allora in Lombardia si tratta di 2.265 euro come valore assoluto. Ecco, nel Lazio sono 6.133 euro, per capirci, quindi c'è un divario del 300%. In Sicilia sono 4.282, il che significa che è due volte tanto quella della Lombardia. Allora, divari di questo tipo, adesso vi darò i dati regione per regione, sono secondo voi giusti e fisiologici? Oppure rappresentano uno squilibrio da correggere in maniera strutturale? Cioè, ora vedremo, passando in rassegna, quali sono le possibili motivazioni dietro delle distribuzioni così disomogenee. Se mettiamo in una retta tutti i punti della spesa pubblica regione per regione, c'è una distribuzione, come vedete, molto, molto ampia. Alcuni di voi potrebbero dire: che cosa c'entra? Caro Giannino, tu per primo dovresti farci osservare che ha un senso che la spesa pubblica pro capite sia maggiore laddove c'è un reddito medio pro capite più basso. E questo è sicuramente un ragionamento da tenere presente. Però attenzione, se noi andiamo a vedere al reddito medio pro capite, che è di poco superiore ai 20.000 euro lordi nel nostro paese, anche lì è vero, abbiamo una distribuzione, cioè un divario, insomma, molto significativo. Cioè noi passiamo da regioni, classicamente, quelle del sud, in cui siamo a 13, punto più basso, 14-15 mila euro rispetto alla media di poco superiore a 20, quasi 21 mila euro lordi di reddito pro capite medio, e abbiamo delle punte nel nord dove si arriva quasi a 29, quasi a sfiorare i 30 mila, quello 2015 probabilmente nel nord si superano i 30 mila euro lordi. Ma come vedete, se anche ci basassimo su questo criterio del puro reddito pro capite, il divario non è superiore al 100%, ecco, che è enorme dal punto di vista del gap del paese della crescita tra nord e sud e dei problemi sociali che ci sono sul, questo non c'è dubbio, ma il divario che c'è nella spesa pubblica pro capite, come avete sentito, è molto più ampio, quindi non si spiega in questi termini qua. Allora, vi rifaccio qualche cifra più complessiva, ripeto, ho preso solo due o tre tabelle su 232 pagine perché vorrei soffermarmi solo su questo, che in altre parole è il tema del federalismo dimenticato, mai attuato, tante chiacchiere, tante polemiche politiche, di fatto però questi numeri ci dicono che è tutto rimasto come era prima, per essere chiari. Allora, se andiamo a vedere nel totale della spesa pubblica italiana i trasferimenti correnti 2014 all'amministrazione pubblica, troviamo che a fronte di 8 miliardi erotti per le amministrazioni centrali, ci sono 110 miliardi erotti per le amministrazioni locali, cioè regioni, comuni e province, e poi 116 miliardi per gli enti di previdenza. Ricordate sempre che l'INPS, se non ci avesse il trasferimento pagato alla fiscalità generale, non starebbe in piedi. Questo ricordiamocelo sempre quando parliamo di prepensionamenti. Se poi andiamo a vedere disaggregati questi 110 miliardi erotti 2014 di spesa pubblica alle amministrazioni locali, il più, cioè 90 miliardi erotti, è andato alle regioni, 11 miliardi e 6 sommando comuni e province, un altro mezzo miliardo a enti comunque che sotto le regioni producono servizi sanitari, 7 miliardi erotti a enti produttori di servizi economici, assistenziali e culturali che sono a metà tra le competenze regionali e comunali, e quindi abbiamo un ordine di grandezza, per così dire, delle cifre di cui stiamo parlando. Adesso andiamo a vedere un secondo le distribuzioni regionali del totale della spesa di cui abbiamo visto l'aggregato complessivo come ordine di grandezza. Se andiamo a vedere appunto dove si spende di più pro capite di spesa pubblica, Bolzano, la provincia quindi di Bolzano, e quella di Trento, le province autonome di Bolzano e Trento battono tutti, perché Bolzano sfiora i 9.000 euro pro capita l'anno e Trento 7.600, sempre nel 2014. Dopodiché un'altra regione autonoma, la Valle d'Aosta, 7.400, sapete che qui c'è una percentuale delle entrate molto più elevata che viene trattenuta a disposizione, cioè c'è una vera autonomia finanziaria sul totale delle entrate rispetto alle regioni a statuto ordinario, e questo spiega anche considerevolmente il divario a favore della spesa pro capita di queste aree, che non sono esattamente quelle con reddito più basso. Naturalmente, quindi, se adottassimo il problema di una maggiore integrazione da trasferimenti pubblici rispetto al reddito, non si spiegherebbe questo dato. Questo è un dato che ci dice che non dipende affatto da questo la distribuzione e la concentrazione di maggior spesa pro capita. E poi in testa per spesa pro capita l'abbiamo visto il Lazio, 6.133 euro pro capita l'anno, il Friuli 5.200, la Sardegna 5.100, la Sicilia 4.200, il Molise idem 4.200, la Calabria 4.100, la Basilicata 3.900, praticamente 4.000, l'Abruzzo idem quasi 4.000, la Campania 3.637, poi la Liguria 3.519, la Puglia 3.400, l'Umbria 3.100, la Toscana 3.000, le Marche 2009, il Piemonte 2008, il Veneto 2007, l'Emilia Romagna 2006, la Lombardia 2200. Allora, capirete che qui c'è un divario tra la Lombardia e la vetta invece della concentrazione della spesa pro capite che non ha alcun corrispettivo rispetto all'inverso dei redditi medi pro capite. Questo lo dico per chiarezza, perché non è che mi sfugge che la spesa pubblica ha un livello di sostegno al reddito, però come vedete non dipende da quello, perché la distribuzione è molto più elevata. Se andiamo a vedere poi, e finisco a parlare di numeri perché ci si annoia per radio, se andiamo a vedere quanto pesa nelle diverse regioni la spesa pubblica in percentuale del PIL della regione, abbiamo un quadro che è veramente impressionante, perché noi andiamo dal 6% della Lombardia, saliamo al 19,5% del Lazio, saliamo al 26% della Sicilia, al 27% della Calabria e al 27,5% della Sardegna. Cioè noi abbiamo regioni in Italia come la Sardegna, la Calabria e la Sicilia in cui i trasferimenti pubblici e la spesa pro capite rappresentano più di un quarto dell'intero PIL regionale. E questo è un campanello enorme d'allarme, perché percentuali in realtà superiori al 20% indicano chiaramente che la dipendenza da trasferimenti pubblici diventa quasi un ostacolo allo sviluppo dell'economia di mercato che non dipende da trasferimenti pubblici, cioè che la dipendenza da trasferimenti pubblici in presenza di un reddito medio pro capite significativamente più basso di quello della media diventa nel tempo un sistema di dipendenza strutturale che genera sottoeconomie subottimali di efficienza e impiego dei capitali comparati rispetto alla certezza di questi flussi pubblici. Questa è la realtà diversificata che dicono questi numeri. Ecco, allora io di fronte a questi numeri vi chiedo, cari ascoltatori, se dobbiamo continuare così. Inerzialmente col bilancio dello Stato andiamo avanti così, è inutile illudersi. Oppure se siete critici su cose provate negli anni alle nostre spalle e mai riuscite. I nostri ospiti. Abbiamo con noi Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena e ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi ha scritto, traendo spunto da questi numeri, sul giornale. Grazie di essere con noi, professor Lottieri. Grazie. E Alessio Morosin, che è stato candidato governatore alle elezioni regionali per Indipendenza Veneta nel 2015. Grazie Morosin di essere con noi. Un saluto a lei e agli ascoltatori. Allora, come avrete capito, Morosin è un indipendentista, quindi io lo lascio in seconda battuta. Prima mi interessa qualche riflessione da parte di Carlo Lottieri. A lei questi numeri e questa distribuzione che cosa inducono come riflessione? Ma alcune riflessioni. La prima, proprio partendo da questo rapporto tra esigenze della società e spesa, e quindi il fatto che la spesa andrebbe dove c'è la povertà, potremmo dire da liberisti selvaggi che forse ormai funziona meglio l'argomento opposto, e cioè che ormai le regioni, alcune regioni sono tanto povere perché c'è proprio spesa pubblica, né la spesa pubblica stavolta segue la povertà, ma la povertà segue la spesa pubblica. E poi un'altra considerazione che mi sembra importante è che questi dati sono solo metà della realtà, rappresentano solo una faccia della medaglia, perché l'altra faccia della medaglia è il prelievo. Già. E quando noi mettiamo assieme il prelievo e la spesa, la rappresentazione dell'Italia che emerge è davvero qualcosa, quello che è scritto oggi appunto sul giornale, qualcosa di incredibile. Cioè, sostanzialmente ci sono tre regioni, che poi sono la Lombardia, Veneto e Emilia, che sono vittima di una sorta di sfruttamento territoriale che non ha pari al mondo. Cioè la differenza tra ciò che danno allo Stato e ciò che ottengono è enorme. Ecco, insomma, esattamente, non solo sono in fondo alla classifica della spesa pubblica, ma sono anche in cima alla classifica della tassazione, quindi dell'imposizione, per cui la combinazione di questi due fattori fa sì che queste economie sono veramente piegate dal maltrattamento che subiscono da parte dello Stato. E questo per cosa? Per mantenere appunto un meccanismo assistenziale che dall'altro lato sta rovinando il Sud, come ormai tanti da anni rilevano. Insomma. Allora, tanti anni fa, direi 20 anni fa, una certa fase del centrodestra italiano partì con l'obiettivo di mettere mano strutturalmente a questo squilibrio. Qual è il suo bilancio, Lottieri? Il bilancio è di due tipi. In primo luogo, la prima considerazione è che la classe politica non taglierà mai il ramo su cui è seduta, e quello che è successo in Italia mi sembra in questo senso abbastanza comprensibile. Quindi è normale che si è usato l'argomento degli interessi territoriali, ma si è usato strumentalmente per ottenere voti e non si è mai chiesto, nemmeno quando si poteva, un vero cambiamento. Ma l'altra considerazione è più negativa, se vogliamo, è che forse un cambiamento vero all'interno di uno Stato unitario non è ragionevole attenderselo. Gli stati vivono fondamentalmente di redistribuzione, quando abbiamo realtà tanto diverse come la Calabria, Lombardia, è fatale che ci sia un flusso che va da una parte all'altra del paese, perché la giustificazione solidale è una giustificazione fortissima, Quindi immaginare all'interno di una Stato unitario di passare a un sistema davvero federale in cui i territori mantengono le proprie risorse, che ci sia competizione tra diversi territori, mi sembra davvero un'utopia, ecco. Oh, io ricordo a chi ci ascolta che, attenzione, guardate che gli ordinamenti federali non è vero che non sono capaci poi di grandi sforzi solidali di riequilibrio. Pensate solo alla tassa pagata per anni e anni e anni, che ancora si paga in Germania, quando è venuta la riunificazione e quindi quando l'ex DDR apportava un reddito medio pro capite e un prodotto che era una frazione molto più bassa di quella della media, ovviamente, della ex Repubblica Federale Tedesca. E in quel caso si è messo in moto un grande fondo, da una parte un fondo misto pubblico-privato per fare una grande ristrutturazione dell'economia dell'est, avviandola al mercato, la Treuhand si chiamava così, e dall'altra però un grande fondo fiscale per investire aggiuntivamente in quelle regioni. Quindi l'ordinamento federale non significa incapacità di un equilibrio sistemico per far fronte ad alcuni obiettivi, però quegli obiettivi sono dichiarati e misurati nel tempo, mentre da noi è un andamento inerziale, strutturale, che va avanti così, e va avanti così senza che in realtà sia stato possibile ridiscuterlo. Adesso poniamoci un altro problema e iniziamo a dare una risposta dopo la pausa dell'informazione stradale. Questo problema è vivissimo in tutta Europa, cioè la verità è che se l'Unione del Regno Unito se ne vuole andare dall'Europa, stiamo parlando di questa stessa cosa in realtà. Se la Catalogna rispetto alla Spagna ha puntato i piedi e ha un processo indipendentista, stiamo parlando di questa stessa cosa. Allora, è un fenomeno che in Europa è diventato molto più acuto di quanto non fosse quando anni fa si è iniziato a parlare in Italia e poi non si è fatto nulla. Allora, cerchiamo di capire se noi andiamo avanti così e restiamo immuni da quello che succede in tante altre parti in Europa. Intanto, strade. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Abbiamo preso spunto dai conti della spesa pubblica regionalizzata, Lombardia 2.265 euro pro capite, Veneto 2.007, Lazio 6.000, Sardegna 5.000 e così via. E per interrogarci, è giusto andare avanti così o bisogna riequilibrare? 20 anni però di tentativo fallito del centrodestra. Quello che chiedo a Alessio Morosin è, in presenza di un centrodestra che questa bandiera l'ha abbassata, perché, insomma, parole povere, la Lega ormai è nazionale, guarda, vuole espandersi al sud, fa della lotta all'immigrazione la questione fondamentale all'euro. Nel frattempo il Regno Unito ha un problema con la Scozia, la Spagna c'è un problema con la Catalogna. Voi, sia pure dal vostro punto di vista, insomma, che è dichiaratamente indipendentista, che pensate di questo bilancio di questi anni? Ma allora, intanto ha detto bene lei che la Lega è diventata un partito italiano, un partito quindi che non rappresenta più i territori dei quali è partita, e questo è un dato fondamentale. Ma alla drammatica situazione dei numeri che lei ha illustrato con dovizia, io vorrei aggiungere anche un'ulteriore osservazione che è più grave ancora, Giannino, ed è questa. Il residuo fiscale, per esempio nel Veneto, il Veneto dà circa 70 miliardi di euro allo Stato all'anno, quindi un prelievo di 70 miliardi. Lo Stato ne spende circa 40, poi, e quindi abbiamo un residuo fiscale di 20. E qualcuno si chiede: gli altri 10 cosa sono? Gli altri 10 sono la beffa, perché noi, oltre a non produrre, a non concorrere a produrre il debito pubblico, abbiamo anche un prelievo a titolo di interessi sul debito pubblico che producono gli altri, quelli meno virtuosi, e quindi abbiamo la beffa perché sostanzialmente oltre ai 20 miliardi, ripeto, di residuo fiscale, cioè di somme che vengono prelevate dal territorio veneto e non spese in favore del popolo del territorio veneto, abbiamo anche 9 miliardi di interesse sul debito pubblico degli altri. Vuol dire che 5 milioni di veneti pagano sostanzialmente, hanno un costo loro di circa quasi 29-30 miliardi all'anno di somme che non trovano giustificazione nel momento in cui vengono prelevate da questo Stato vessatore. E quindi ogni cittadino veneto, grosso modo, paga 4.000 euro a testa per residuo fiscale, più altri 2.000 circa, un po' meno, di interessi sul debito pubblico, 6.000 euro a testa, che vuol dire una famiglia media di 4 persone, marito, moglie e 2 figli, vuol dire 6 per 4 fa 24, 24.000 euro all'anno minori disponibili. Questa è la follia, la follia. L'altro aspetto, e non serve illustrarla, mi fermo qua perché i numeri parlano, l'altro aspetto, abbiamo un debito pubblico che non si riesce a ridurre, 2.200 rotti miliardi, Renzi si accinge a toccare, anzi vuole imporre la modifica della Costituzione del titolo quinto, gli articoli 116, 117, la ripartizione delle competenze, la prevalenza dell'interesse nazionale e quant'altro, ma non viene toccato in termini rilevanti l'articolo 119 che ha due vere falle. Il terzo comma, quello che parla che lo Stato, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, noti noti, senza vincolo di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. E il quinto comma che dice che per promuovere lo sviluppo e per rimuovere gli squilibri lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore dei comuni, città metropolitane e regioni. Cioè noi capiamo che siamo in un contesto, come diceva bene il professor Lottieri, che è irriformabile dall'interno, che non ha più gli strumenti, non ha più alcuno strumento, non ha più la credibilità e non ha più i mezzi, non ha più nulla per potersi autoriformare. Ecco perché Indipendenza Veneta sta prendendo piede, al di là dei neodemocristiani alla Zaia e del centrodestra, che è una vecchia categoria del passato, perché noi siamo un movimento trasversale, Indipendenza Veneta non gliene frega nulla di destra e di sinistra, categorie del passato, categorie dell'imbroglio, categorie che sorreggono allora, uno Stato baro e allora, fallito. Aspetti un secondo, perché io naturalmente ho un mucchio di ascoltatori che adesso dicono, ah, questa è propaganda politica, fai disinformazione, è tipo Roberto, davvero, caro Roberto, questi sono i numeri della spesa pubblica per ragione. Quindi informazione, io parto dai numeri, io vi pongo una domanda, rimanere così? Siete convinti che sia giusto? Faccio un'osservazione, con la riforma della Costituzione che oramai è varata, cioè c'è solo la quarta votazione e poi si va al referendum a ottobre, il meccanismo di una maggiore autonomia finanziaria non è toccato, quindi noi andiamo inerzialmente avanti in questa situazione. Io credo che sia fisiologicamente sbagliato. Non credo al fatto che domani l'Italia si spacca. Io credo semplicemente che a questo dato di fatto noi non abbiamo trovato una risposta. Ci sono risposte date da altri ordinamenti europei che sono molto più efficienti da questo punto di vista. Persino la Francia centralizzata, che a me non piace come modello, però è più efficiente, perché se voi andate a vedere qual è la percentuale di spesa locale, il divario all'interno della Francia, dove anche lì esistono differenze di reddito, non come quelle italiane, ma ci sono, è molto meno disperso e con minore percentuale di dipendenza dai trasferimenti pubblici in praticamente il 60% del mezzogiorno, come i dati indicano nel nostro paese. Allora questo meccanismo di squilibrio economico complessivo vale per l'Italia, questa roba ci fa crescere tutti di meno, perché noi consideriamo intoccabile questa, che è un'eredità storica nata da concrezioni di concentrazione di spesa in alcune parti d'Italia piuttosto che in altre. Io ci metto in primis anche la regione a statuto speciale, non so se è chiaro, perché altrimenti mi potreste accusare davvero a quel punto di vista di fare disinformazione. Questa è la fotografia di un centrodestra che ha promesso le cose che clamorosamente non ha fatto, e una sinistra che a volte riconosce che questo problema c'è, ma che poi quando si tratta di fare la riforma della Costituzione che crede non lo tocca. Allora io mi limito a dire, cari ascoltatori, che così noi non andiamo avanti bene, capite? Non andiamo avanti bene, perché se voi vi aprite, e qui mi rifermo per fare un'altra domanda a Lottieri, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la stima annuale che fanno per esempio dei coefficienti, delle percentuali, perdonate, di evasione stimata, quindi nasometrica, imposta per imposta, troverete che nelle regioni dove è più alta la spesa pubblica sul PIL, lì si concentrano a livello provinciale per esempio la percentuale di evasione dell'IVA superiore al 40%. Capite che c'è una correlazione da questo punto di vista? Sto dicendo una correlazione, non un meccanismo di causalità. La correlazione sono due cose che possono coesistere, incerto il motivo logico, economico, statistico che le lega. Però ci sono delle cose che ci dicono che noi condanniamo una parte d'Italia a dipendere sempre più dallo Stato, di fronte alla quale chiudiamo gli occhi di fronte all'illegalità. Tant'è che alcuni di voi, per esempio alcuni ascoltatori, dicono sì, però Giannino, guarda che lì se tu chiudi il rubinetto al sud, poi la mafia vince e stravince la camorra. Siete sicuri che non dipenda anche da quale quantità di risorse pubbliche che loro intermediano direttamente, se andiamo a vedere le indagini, gli appalti, eccetera, eccetera, da quelle parti, per esempio? O pensate che Cantone risolva tutto? Io penso che Cantone non sia Mandrake che risolve dovunque i problemi. Allora, io mi limito a segnalare questa questione. Abbiamo sentito due voci, non sono quelle della destra e della sinistra tradizionale, però pensateci, cari ascoltatori, perché i numeri dicono questo e propaganda io non ne faccio. Continuate con Radio 24.